Thank you. al mondo ci metta una varia di quelle grandi a prezzo ricco. E boh, siamo lì, quindi ho fatto l'ampli tarifa. Ma si conferma, dai. Vabbè. Dai, ci vuole, se la vogliamo, ci vuole il tempo. Capito? Vuole tutte. Quella colpa è maledetta, mamma mia. Ma perché non ho staccato la... questo baracchino qua, la... come si chiama? La frontale, no? Quella mirino, che era... meno male, se tu gli facci la scopettina. E poi dopo questo disgraccio, ho mangiato, questo di carta, si scopre, si è mangiato. Ho pulito bene, e giù qua dubbio, ma io l'ho ripensato. Però ogni volta è stata staccare i pomi e le manopole. Non so di quale. Va bene, anche qui già si è fatto il coordinato. Due che baracchini qua mi chiede di più di uno, mi stava scoprendo facendo. Non ho preso scappato. Non ho più. E il tempo ci vuole. Non c'hai un po' di roba, è un casino. Sposta qui, sposta là. Tanta passione. Non ho più una. Devo prendere perché sono tutto impegnato, la radio questa la uso qui perché c'è un'antenna attaccata alle 10 metri, la uso 28 e quindi mi viene bene, con la poi mi sposto e trasmetti, poi gli altri ce l'ho tutte sotto di collo, una per ogni banda, 10, 20, 40, 80, adesso in più c'ho anche 50 mega, che ho attaccato la 7 grossi della Icom. Diceva che il polo stesso, lo ho fatto, non montiamo la penna, mi sono stufato, la facevo quasi un anno in Grecia, quasi un anno, la stavo facendo un progettino con un palo di quelli massicci, 14 e 11 un palo di detrattore, tipo quello che c'ho della Mantova, è ancora più grosso. Lo faccio telescopico lavoro, potrò fare un bel appoggio, ci metto sulla verticale, molto verticale, 5 bande, e beh, non so se toglie la mappa, ma lo metto alla fianco, se vogliamo, di quello che posso ricevere. Se vuoi fare molti intrusi, facciamo così. Quindi chiamo anche quello, se non vuoi c'è angoscia. Non è tipo la colorata, la venduta, tanto non ho nessuna attenzione più a farlo, non mi avevo nessuna attenzione quindi l'ho venduta. Ascolta, te lo voglio l'altro giorno, ma è quella roba là che hanno chiamato, non ti dice niente, perché ho visto quella persona, e mi ha detto sempre con novità. Negativo, però se te lo richiamo più subito, nulla, nulla. Adesso perché sono passati quelli che dovevano passare, gusci dei genieti, cioè adesso il primo di novembre e il primo di marzo, ma comunque ne ho un'altra in corso lo stesso, adesso uno di questi giorni chiamo, vediamo un po' cosa mi dicono, perché si doveva andare in chiesa, blu, ma su cosa dici, no, parola. Aspettando la gradatoria, vediamo un po', ma dovremmo sì, dovrebbe essere buono. Vediamo un po', cioè, è un casino nero veramente. È un casino nero, nero, nero. Io aspetto, ma comunque guarda, io mi gioco tutto quello che vuoi, che me la fanno scadere la gallatura. Ma la fanno ripetere, vedrai. Poi mi scade la pile. Perciò loro fanno entrare chi vogliono loro. Siete che conosco. Sotto la I, colpa che io per il fatto di non ho lavorato fuori. No, sta parlando anche bassa adesso, là. Ce la pagava. E quindi sta certo che lavorava, no? Sì, quindi ho fatto rientro. Ma domani praticamente non vengo neanche a pranzo. Se non ho preso il saldo, perché c'è queste cose va a finire. Siamo un po' in ritardo con alcune cose. Non so, era brutto, quindi sono stati dei lavori sospesi, adesso abbiamo ripreso con tempo buono. Allora mi spero di terminarne uno, almeno, perché è molto, molto urgente, stiamo cambiando la condotta. È molto, molto urgente, dobbiamo dare acqua a un comparto nuovo che hanno fatto lì a Montetto, un villaggio nuovo, quindi c'è necessità di muoverci, prima di più durante il tempo brutto. Mi frangiano pure, mi faccio collavo e proviamo a dare acqua lì, ci lavoriamo e quindi cambiamo quando le ho fatto su un'altra andare a tornare e porto via su qui tempo. Ma guarda, vabbè lui che fa così, sono le salite e scendono un casino. Se quando non vedo acqua se mi sono dimenticato, mannaggia la beppa. Sotto, a volte sta viaggiando se ne vuoi più paghi, se ne vuoi 20 paghi 20, più martirano più paghi, non so, macchina. Sarà a 10.00 Luca. A 100 stai andando, 100 mega, a 100 mega, cioè a massimo, guarda, 53, uguale a 54, ma stai andando col campo di rete, fra. Dai, ne avevo detto, guarda, 100.00, sì. Sono 56 io, ti sono attento, io di mai non ho capito, non c'ho l'ora di internessa, ma la mia sede lì. Sono sempre figlio, quindi dipende al giorno momento, mi abbassa, però già sto camminando, ma ci sono giorni che camminano molto come parenti, infatti anche quello che volevo fare, devo portare il pavo, buttare, portarlo qua, non trovo diretto, lo tolgo la vita. Vicinissimo, attaccato proprio, facciamo un... non è che abbia problemi, è successo. Vabbè, con questo io vado a 54, aspetta. Non so, 54 a 54. C'era qualcosa di detto, ma accetto. E va meglio qualcosa di detto, ma so che mi viene male, perché il costo. Perché a seconda, quando muovo il computer, me ne butto tutto in terra. Già quel modem sa che ho 20 volte in terra. Adesso ho messo in un punto dove il cavo non ci arriva più. E mi tocca andare a navigare nel wireless. Perché? L'animo non fa perché? Allora io sto viaggiando, praticamente quello di Torino sta lavorando a 100, con quello portatile che ci univo lavora a 54.00 Luca. E che? Avanti, chi è là, Gap? Indietro, buonasera a tutti dell'Anima Lunga, barracca automobile, cambio. L'Anima Lunga, cazzo, perché anche lì anime lunghe ci sono in questa frequenza. Faccio di ciabatte, ero un paio di cellulari. Se si fa troppo al cielo se ne è andata, che mi pare che sono in ritardo, ecco. Luca Rine, mi senti in quella del Monte Rosello, mamma mio? Ciao, parrocchia, sono claro che mi sono due. Chi va Vicenza e la Provenza. Trasmissione su Torrone, aspetta un attimo, aspetta che muoio il numero che tocca il palo, aspetta. che trovava delle persone, stavo sempre fumando. Ieri sera me ne sono fumato là, alla regina. Ma la cosa è un po' di nulla, bisogna fare le palle, diciamo così. Ciao!